Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 28 giugno, puntata numero 32 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e per l'ultimo appuntamento di questa prima stagione ci occuperemo del fenomeno che ha attraversato e caratterizzato nella maniera più inquietante i fatti del mondo e delle nostre vite, che per questo è stato spesso al centro di questa trasmissione. Parliamo della guerra e delle sue molteplici declinazioni. La guerra l'abbiamo vista nel conflitto in corso da oltre 3 anni in Ucraina e in quello più recente tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Ma la guerra la viviamo anche quotidianamente con la crisi climatica, la crescita e la diffusione dell'autoritarismo, la caccia al migrante su scala transnazionale, il riarmo dei paesi dell'Unione Europea e della NATO. Il suo volto più brutale è quello del genocidio in corso a Gaza, dove a fianco delle centinaia di migliaia di palestinesi ammazzati sono morte le coscienze dell'Occidente e anche del cosiddetto ordine internazionale. In mezzo alle macerie della guerra proveremo a navigare con l'ospite di oggi dopo la consueta pausa musicale. A tra pochissimo. Pistols con Holidays in the Sun. Dunque, la guerra al centro di questa ultima puntata di Bologna e dintorni della stagione. Ne parliamo con Giorgio Grappi, ricercatore in filosofia politica al Dipartimento delle Arti di Unibo e tra gli autori del volume Nella Terza Guerra Mondiale, un lessico politico per le lotte del presente, che è uscito tra l'altro poche settimane fa per Derive a Prodi. Buongiorno Giorgio e grazie per aver accettato il nostro invito oggi. Dunque, Buongiorno. io partirei chiedendoti una riflessione sugli scenari globali dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia oltre 3 anni fa. La guerra sembra un po' essere, insomma, tornata centrale tanto negli affari internazionali quanto nella vita pubblica degli stati e in quella privata, nostra individuale. Come si presenta oggi il mosaico dei conflitti sul piano globale? Sì, io inizierei con il sottolineare che la guerra non ci ha mai abbandonato, no? Negli scorsi decenni sono stati molteplici i conflitti, anche disastrosi e sanguinosi. Tuttavia, siamo entrati negli ultimi anni in una fase diversa che ci spinge in qualche misura a prendere sul serio questo scarto, questo cambio di fase in cui in tanti abbiamo individuato un momento che in qualche modo ci obbliga a mettere in discussione una serie di categorie, riflessioni e ad aggiornare anche un po' le nostre mappe del presente. L'invasione russa dell'Ucraina può essere presa come un segno tangibile di questo scarto, di uno scompaginamento del sistema internazionale, non un ordine, che neanche prima rappresentava, ma in una qualche misura un sistema che aveva guidato la fase degli equilibri globali durante la cosiddetta globalizzazione. I segni di questo scompaginamento, possiamo dire, erano già evidenti, sono stati diversi da come è finita l'avventura statunitense tra Iraq e Afghanistan, la guerra in Siria, la competizione in Africa. Ma l'invasione russa dell'Ucraina ha, secondo me, secondo tanti e tante altre, aperto una nuova fase, non soltanto perché ha reso esplicito questo scompaginamento, ma perché ha prodotto una netta accelerazione nella presenza della guerra all'interno della nostra quotidianità. Noi, insieme ad altre, come connessioni precarie, ma anche come ricercatori e ricercatrici, abbiamo in una qualche misura segnalato sin da subito che la guerra tornava non tanto nel nostro presente, ma ad occupare lo spazio politico, ad occupare non soltanto quindi le scelte degli stati, le strategie, la discussione pubblica, ma anche in qualche misura lo spazio dell'immaginazione e interpellava direttamente i movimenti sociali anche da questa prospettiva, perché interveniva nelle società, ma anche portava con sé una forma di immaginario, di lettura del presente dal quale era necessario discostarsi. Io non credo che, diciamo, sia fondamentale fare una mappatura di quelli che sono i diversi teatri, di guerra. Naturalmente noi possiamo vedere come ci sono conflitti in qualche misura anche tra loro diversi, nello svolgimento, negli attori, nelle storie che li hanno preceduti e che hanno portato a determinati esiti, però è necessario in qualche misura cercare una lettura anche unitaria di questa fase, del chiedersi del perché questi conflitti esplodono in questa misura, con questa magnitudine, oggi, e perché questi conflitti oggi rappresentano anche una svolta che, ad esempio, abbiamo visto anche nei giorni scorsi rispetto alle scelte compiute in ambito NATO, in ambito europeo sulla spesa per il riarmo. E allora credo che possiamo sottolineare forse un paio di elementi. Da un lato il fatto che abbiamo visto nei decenni scorsi una serie di processi che hanno radicalmente modificato la struttura dell'economia, della produzione, del capitalismo su scala mondiale. La formazione di reti del valore transnazionali, la crisi finanziaria del 2008 che ha prodotto trasformazioni nel modo della produzione e all'interno dei mercati, il nuovo ruolo geostrategico delle infrastrutture, più recentemente la corsa tecnologica verso l'intelligenza artificiale e quindi il ruolo di materie prime critiche, tutti elementi che da un lato possiamo dire sono stati il prodotto della cosiddetta globalizzazione, dall'altro lato ne hanno scompaginato gli equilibri. Se ne parla spesso in termini di multipolarismo, ad esempio, un concetto che, a mio giudizio, registra uno smottamento, anche se ha in qualche misura dei limiti, perché si ferma a fotografare una evidente modifica di quello che era il quadro di egemonia statunitense dei decenni scorsi, ma allo stesso tempo maschera una serie di elementi che invece credo che siano politicamente rilevanti. Intanto oggi permangono degli squilibri di forza economico-finanziaria, militare, che tuttavia non sempre rappresentano un potere in grado di affermarsi senza il ricorso ad interventi violenti. Trump, possiamo dire, è un po' una sintesi di quello che sto dicendo, anche perché dietro il suo immaginario transazionale, dei rapporti internazionali, che sembra ridurre tutto agli affari, pone costantemente la minaccia, della forza. Tuttavia, dietro a questo spettacolo di riaffermazione della forza degli stati si celano, processi di, logoramento della sovranità e della capacità di regolarizzare, stabilizzare tanto al campo economico quanto quello sociale. Non si tratta di sottovalutare, ma si tratta di capire come, dietro una apparente riaffermazione della politica degli stati c'è anche un orizzonte di crisi di certi meccanismi, un orizzonte di disordine su scala transnazionale, segnato dai movimenti del capitale e dai movimenti del lavoro vivo, una riaffermazione, un tentativo di affermazione da parte, degli stati che non avviene sulla base di nessuna mediazione o compromesso, ma ha bisogno di riaffermare costantemente gerarchie sociali come colonne portanti di una sorta di ordine, interno, alla società. Sì, e infatti a questo proposito pare di poter dire che la guerra non soltanto in ambito internazionale, ma anche per quanto attiene la vita degli stati, la politica interna è sempre più un mezzo e un metodo che viene utilizzato, lo diceva anche Matteo Rossi rispetto a quanto accade negli Stati Uniti nel corso della puntata di sabato scorso. Con queste premesse ti chiederei quindi se quanto la guerra e appunto i suoi mezzi e il suo metodo si stiano imponendo come strumento di politica e sicurezza interna nei regimi politici del mondo e non meno che altrove in quelli democratici. Io credo che si possa dire come in qualche misura la normalizzazione della guerra a cui noi stiamo assistendo va insieme da un lato a una ricerca di un nuovo ruolo da parte degli stati e la costante ricerca di ridefinire gli spazi della valorizzazione. Questo ha un suo risvolto, possiamo dire, nella dimensione cosiddetta geopolitica, ma ha un risvolto costante sul piano interno. Questi due piani non sono separabili e anzi penso che sia necessario superare un po' questo sguardo geopolitico sulla guerra per andare a guardare cosa segnala degli smottamenti globali, ma anche che cosa ci indica e ci segnala delle trasformazioni interne alle nostre società. Da un lato noi possiamo dire che questa riaffermazione della centralità politica della guerra si appoggia anche a un insieme di guerre che in questi anni abbiamo visto crescere, una guerra ai migranti sui quali si è scaricata una crescente violenza delle politiche migratorie ovunque nel mondo. Quello che noi vediamo oggi in scena negli Stati Uniti va messo insieme a quello che abbiamo visto per anni lungo i confini dell'Unione Europea e altrove a livello globale. D'altra parte abbiamo quella che possiamo chiamare una guerra patriarcale alle donne e ai soggetti LGBTQI+, che abbiamo visto ancora una volta in questi anni crescere, anche in reazione a movimenti femministi e transfemministi che sono stati protagonisti di lotte su scala transnazionale. Abbiamo anche una guerra contro i lavoratori e contro in generale quelle che sono le forme di insubordinazione. Credo che possiamo dire su questo anche l'analisi collettiva che abbiamo fatto come connessioni precarie è che questo quadro possa essere compreso all'interno di una categoria che è quella del militarismo crescente nelle nostre società. anche per sganciarci dall'idea che questa centralità della guerra porti o debba portare necessariamente a una crescente militarizzazione della società. Certamente abbiamo visto una crescita di un discorso che sottolinea l'importanza di dotarsi di armamenti, di una certa disciplina e via dicendo, lo spauracchio costante a cui siamo esposti. Però noi pensiamo che, nella fase in cui stiamo vivendo, il militarismo sia in qualche modo la misura della portata interna a tutte le società della guerra. E da questa prospettiva credo anche che possiamo leggere alcune categorie, alcuni sviluppi che sono stati letti in questi anni nella luce della deriva autoritaria o in generale dell'autoritarismo. Ecco, anche in questo caso penso che sia utile, anziché pensare ad un ritorno al passato, ritorno al fascismo o altri concetti di questo tipo, di leggere la rilevanza all'interno della situazione, della fase attuale di queste dinamiche e di come anche da questa prospettiva noi possiamo leggere processi simili che avvengono in società tra di loro diverse e lontane, e soprattutto in società che sono da una parte e dall'altra rispetto ai fronti della guerra. Cioè noi vediamo come tutti i soggetti impegnati nella guerra giocano una loro partita interna sulla scia del militarismo. Se pensiamo alla recente guerra dei 12 giorni, già cosiddetta, ecco, possiamo vedere come tanto in Iran, quanto in Israele, quanto negli Stati Uniti lo scontro bellico corrisponda ad un irrigidimento delle politiche interne e delle forme di autoritarismo all'interno, di tutti e tre questi paesi. E a questo punto sarebbe interessante anche capire che cosa succede sul fronte opposto, cioè quello della resistenza ai conflitti e alla guerra. Si tratta di esperienze diffuse e transnazionali, però ti chiederei di aiutarci a capire se queste esperienze abbiano ambizioni credibili o se lo scenario in cui si muovono è troppo complesso e la loro forza è troppo debole e frammentata per poter ottenere risultati di qualche tipo. Dobbiamo innanzitutto distinguere almeno tra due forme di quella che tu hai chiamato anche resistenza alla guerra. C'è una forma esplicita, diciamo così, di chi prende voce contro la guerra, di chi manifesta contro la guerra. Da questa prospettiva, se la guardiamo ad esempio dal lato dell'Italia, dell'Europa, delle mobilitazioni che abbiamo visto nelle ultime settimane e mesi, possiamo dire che ci sia una ripresa di voce dopo quasi 3 anni, insomma, di sbigottimento rispetto alla nuova fase. Certamente il genocidio a Gaza è stato un punto di caduta che ha portato a delle mobilitazioni piuttosto diffuse. Possiamo notare come le mobilitazioni per Gaza comunque abbiano sempre faticato a trovare dei canali di connessione con una più generale rifiuto di quella che è la logica di guerra. In un contesto che nel libro a cui tu facevi riferimento prima, noi abbiamo chiamato di terza guerra mondiale. Da questa prospettiva, quindi, noi abbiamo movimenti contro la guerra o contro alcune delle sue manifestazioni, non certo movimenti di massa come in altri periodi abbiamo visto. Molti e molte ricordano il movimento contro la guerra in Iraq. Viene anche da chiedersi la grande forza di piazza di quel movimento, poi che cosa è riuscita effettivamente a conquistare rispetto alla guerra che contestava. C'è poi dopo anche un altro lato però della resistenza alla guerra. Intanto ci sono delle forme dirette, perché noi vediamo come in diversa misura in tutti i paesi che sono direttamente oggi impegnati in conflitti militari abbiamo forme di opposizione. Le voci contro la guerra, così come la diserzione, il rifiuto di combattere, la fuga, noi le abbiamo viste in Russia, in Ucraina, in Israele, in Iran. Quindi da questa prospettiva noi abbiamo esempi anche di questo tipo. Credo che uno sforzo che dobbiamo riuscire a fare collettivamente è di vedere però anche una serie di movimenti non organizzati che si oppongono a quelle che sono le logiche della guerra, si oppongono quindi alle logiche del militarismo, si oppongono al rafforzamento delle gerarchie sociali, si oppongono alla nuova forma del non c'è alternativa di stampo neoliberale che noi oggi abbiamo nei confronti della guerra e dei sacrifici che questa impone sul piano del lavoro e sul piano dell'agibilità degli spazi democratici e di tutti gli altri spazi della società. Quindi, per rispondere alla domanda delle ambizioni credibili o se lo scenario sia troppo debole e frammentato, io credo che la risposta sia esattamente affrontare la frammentazione di questo scenario, cercando di portare avanti quelle che sono ambizioni credibili. Io credo che lo spazio per un grande movimento sociale contro la guerra ci sia per riuscire a praticarlo, è però necessario superare alcune illusioni, alcuni blocchi che in questi anni hanno portato molti e molte a pensare che si potesse spezzettare la opposizione alla guerra, oppure si potessero affrontare i teatri di guerra facendo ricorso a vecchi schemi. C'è bisogno di riacquisire una capacità di lettura in termini internazionalisti, di politica transnazionale che superi la logica dei fronti e del nemico che la guerra ci impone. Forse l'esercizio più difficile e più importante oggi è quello, per i movimenti soprattutto, di lavorare al riconoscimento e alla ricerca del fronte degli amici all'interno delle lotte, di lotte che non possono dimenticare l'insieme di lotte sociali che abbiamo animato e attraversato in questi anni, che ancora oggi sono in corso nel nome di scontri geopolitici su scala globale. In questo senso, credo che le voci venute dall'Iran nel corso delle ultime settimane siano particolarmente importanti. Giorgio, pochissimi minuti ancora, tornerei al libro, il cui titolo è sufficientemente evocativo. Nella Terza Guerra Mondiale, tu sei uno degli autori. Chiedo a te, che hai contribuito al volume, quali sono gli spunti che ti senti di condividere. C'è un passaggio che cito testualmente dell'introduzione: il nostro problema non è solo condannare la guerra, ma anche opporre alla sua dura realtà parole e pratiche che essa non sia in grado di governare. Partirei un po' da questo per chiederti una telegrafica riflessione rispetto agli input che vengono dal volume. Sì, il libro possiamo dire è in buona parte anche un tentativo di sviluppare un ragionamento, non fornire delle risposte, ma quantomeno cercare di indirizzare le domande in una direzione che a noi sembra più utile e produttiva rispetto alle questioni che abbiamo affrontato anche in questa intervista. Per questo quello che io posso dire è che appunto il sottotitolo del libro, Un lessico politico per le lotte del presente, ha un po' questo scopo. Lo dicevo prima, abbiamo un problema anche di reinvenzione del linguaggio, delle categorie, dei concetti che utilizziamo nella nostra costruzione di opposizione alla guerra e di mobilitazione sociale. Per questo il libro è articolato in una serie di voci che riguardano la dimensione transnazionale, le trasformazioni dello Stato, il militarismo, i migranti, i conflitti, climatici, la dimensione decoloniale e il problema del campismo che ha limitato e per certi versi anche reso problematica l'opposizione alla guerra, una riflessione critica anche sul concetto di resistenza e si conclude con una sorta di proposta, di prospettiva, che è quella di pensare anche la pace come un terreno di lotta. Ciò non significa sottovalutare il fatto che ogni pace parziale, tregua, ogni interruzione della distruzione, della morte portata dalla guerra non sia da ricercare e benvenuta, ma significa che se riconosciamo l'insieme di processi di cui anche abbiamo parlato come facenti parte della guerra, della sua logica politica, allora è evidente che anche la costruzione della pace è per noi un terreno di lotta che mira a modificare, anche a trasformare l'insieme di rapporti sociali su cui oggi si appoggiano forme di oppressione, di sfruttamento e di violenza. La pace è, da questo punto di vista, un laboratorio di connessioni, di lotte, che può trovare, può collocarsi nella scia di quel processo di reinvenzione dello sciopero che noi abbiamo visto emergere negli ultimi decenni. Benissimo, Giorgio, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo contributo e per averci aiutato a tracciare questo quadro che davvero è di terza guerra mondiale nel quale siamo immersi. Grazie mille, Giorgio Grappi. Grazie a voi e a chi ci ascolta. Con questa puntata si conclude la prima stagione di Bologna e dintorni, come dicevamo, insomma, con tutti i nostri limiti e il carico di cattive notizie che ci hanno accompagnato. Noi speriamo di aver creato un po' un'opportunità per tutte e tutti per comprendere, di più del mondo che ci circonda, ma per quello che ci riguarda possiamo dire di essere contenti e ci sentiamo anche privilegiati per il contributo che le ospiti e gli ospiti ci hanno fornito per comprendere meglio non soltanto questi tempi disgraziati, ma per provare ad attraversarli con maggiore cognizione e rettitudine. Questo naturalmente è solo un a risentirci, vi aspetto incazzati e inquieti come sempre per la prossima stagione di Bologna e dintorni, naturalmente su Radio Città Fucico. Abbattiamo le scuole, c'è un bel funerale nel centro commerciale. Vieni nel bel